arrivata, poi partita come un lampo, lasciandoci il profumo del suo vento. Grazia nelle mani a tutto campo, a tutto cielo, col sorriso in mezzo al mondo. Una fede grande in questo mare di cemento. E con lei ballano gli angeli. Guarda caso, soffrono sempre i più deboli. Forse perché in questa terra si deve soffrire per migliorare. Forse perché in questa terra non c'è posto per chi sa amare. Raccontano al paese che aveva una dolce voce nelle strade dell'inferno, prese di petto la sua croce. Alchimia di forza e vento, contro tutti, contro il tempo, a mani nude girovagava nel labirinto della propria vita. E poi in un attimo se n'è andata, e con lei ballano gli angeli. Guarda caso, soffrono sempre i più deboli. Forse perché in questa terra si deve soffrire per migliorare. Forse perché in questa terra non c'è posto per chi sa amare. Dove è passata nascono fiori, alberi grandi che toccano i cieli. Ave Maria, piena di grazia, tu donna figlia di un'ingiustizia. E te la ridi che noi qui in terra cerchiamo ancora la nostra stella. E mi hai lasciato i tuoi occhi belli, il tuo sorriso, i tuoi capelli. È una valanga di bei ricordi, e con lei ballano gli angeli. Guarda caso, soffrono sempre i più deboli. Forse perché in questa terra si deve soffrire per migliorare. Forse perché in questa terra non c'è posto per chi sa amare.